Il Festival di Sanremo del 1961 segnò l'ingresso in pista di cantanti nuovi, sicuri interpreti dei gusti giovanili. Adriano Celentano, Mina e Milva. I primi anni naturalmente sono stati per me determinanti, soprattutto il primo, il 61, è stato per il festival che mi ha rivelato al grande pubblico. Il è festival stato il che tuo debutto? È stato il mio debutto dopo aver vinto il concorso delle voci nuove indetto dalla RAI del, sì, del 59 e di diritto, finito nel 60 e di diritto andai a Sanremo, sì, e presentai il Mare in Cassetto, arrivai terza e avvenne quella specie di così di come dire rivalità poi inventata dai giornalisti fra perché Mina cadde e io venni innalzata, arrivassi addirittura e così fummo nacque, sì, questa rivalità, sì, giornalistica, sì, perché non, fu, non lo fu mai, sì, dal punto di vista artistico, sì. Con una scheggia di barca